141. Uova stracciate. Questo è un piatto di compenso o da servirsi per principio a una colazione ed è dose bastevole per 3 persone. Uova numero 4, burro grammi 40, panna 1 dl. Mettete il burro al fuoco e quando soffrigge versate le uova frullate, conditele con sale e pepe e girando sempre il mestolo unite la panna a poco per volta. Assodato che sia il composto, coprite con esso 3 fette di pane arrostito grosse quasi un dito e senza corteccia, che avrete disposte prima sopra un vassoio dopo averle unte calde col burro. Spolverizzatele sopra di cacio parmigiano e mandatele in tavola.